questa crisi del 2008, quella passata, che adesso stiamo forse si sta forse riproponendo sotto nuove spoglie, ha in qualche modo un po' esaurito le armi e le munizioni dei governi. Basti pensare che Obama ha immesso nell'economia 800 miliardi di dollari come stimolo fiscale e oggi diciamo ha dovuto soccombere ai repubblicani per raggiungere un accordo sul debito, quindi non ha più munizioni, non ha più soldi da spendere, così anche i governi europei. Quindi oggi il senso di impotenza della politica e dei governi è particolarmente avvertito e pericoloso, secondo me anche. Sì, è pericoloso e vorrei capire se tu trovi un collegamento tra un insieme di tensioni sociali, fermo restando tutta la condanna che si può avere per quello che è successo in Gran Bretagna, a Londra, ma insomma gli indignados in Spagna, le tensioni in Nord Africa, la Gran Bretagna, speriamo che non succeda niente in Francia, visto che lì le banlieue ci hanno abituato a reazioni molto serie. Cioè, si sta avverando la profezia per cui la finanza derivata e deviata, come la chiamo io, ha scaricato sugli stati tutti i costi di quelle speculazioni che avevano permesso di far guadagnare milioni di dollari all'anno a singoli businessmen. Naturalmente la finanza ha questa colpa. Bisogna anche dire che in quegli anni, negli anni d'oro in cui la finanza ha fatto questi affari, gli affari li hanno fatti anche gli stati o almeno le collettività. Ci sono numerosi paesi europei che hanno conosciuto in quegli anni una crescita molto forte, intorno al 3% annuo, che quindi hanno creato nuova classe media, fortissima occupazione. Penso per esempio all'Inghilterra del periodo di Blair, e ci sono paesi del mondo dove la possibilità di far affluire capitali ingenti ha trascinato nella modernità centinaia di milioni di contadini, di povera gente. Penso per esempio alla Cina. Quindi la finanza ha degli aspetti assolutamente negativi, che sono quelli che tu hai citato, ma è anche fondamentale per far circolare i capitali, che come si sa in economia servono. Per quanto riguarda le tensioni di queste settimane, io penso che ci sia un nesso, cioè non è soltanto la crisi sociale che forse in alcune aree si sente di più, penso alla Spagna a causa dei tagli, dell'austerità, in altre meno, ma è proprio questa sensazione di impotenza del potere che secondo me tende a creare ribellismo e persino anarchia. Le scene di Londra sono scene di pura e vera anarchia, forse neanche socialmente tanto giustificate, ma non è soltanto la condizione sociale che può provocare ribellismo. Io ho fatto nel mio articolo oggi un riferimento agli anni 30, proprio per questo, agli anni 30 del Novecento, quando una crisi economica spaventosa creò una crisi di fiducia nelle classi dirigenti, una crisi di rigetto che poi portò agli autoritarismi e alla guerra in Europa.